linea, mi ascolti adesso qua, scappa. Ho l'amico della Sardegna in paramobile, mi ascolti adesso K. Ho l'attenzione l'amico della Sardegna in paramobile, mi ascolta. Ho l'attenzione l'amico in paramobile se mi ascolta, cambio. Manco leva, vi fermo a voi, che ci picchia, oh. Ma è la giornata di merda. Sempre no che senti. E vai con come. Oh, scusate, non so che c'è, mi sono svegliato poco fa. Aspetti, mando una cosa, Marco, aspetta dei secondi, su WhatsApp, ce l'ha acceso? Sì, nell'altra stanza è acceso, dai. Chi c'è? Aspetta, ma te l'hai fatto, gara. Certo, tu, mi pare che lo prendi. Ma sei solo qua? No, se c'era Natalino, chi è Claudio? Certo, mi pare che lo prendi. Gara, gara. Non sono lo prendi. Che sciogliere. Aspetta, ma mando una foto a Massimiliano. Beh, Claudioschi. Ma Claudio sei scidato, Marco? Come? Ma Marco sei scidato, a giudizio. Ehi, poco fa, non senti come c'ho la voce? E sembra che hai fatto l'amore tutta la notte. Ehi, con Maria Mano. Sì, tutto quanto scombussolato. Guarda la foto, va, prendi il telefono. Ehi, ciao a tutti, comunque, scusate l'eruzione. Adesso vado a guardarmi la foto, poi preparo la colazione. Ciao, a dopo. Questa colazione, bella. Andave. C'è qualcuno ma sei basso, chi c'è? Chi sei? Ciao Nicola, buongiorno, un po' basso sei, eh? Ha la batteria scarica? Ok. E beh, Claudio, lei ha fatto affari? Aspetta, sì. Questo che sto combattendo, il primo sulla sinistra. Turner. Ah, beh. Sta scendo brutto, eh. Tu. Che sono nel verbo, chi fai? Ma che sono un camionista, ma io, poca niente. Cesse, che delinquente. E beh, Marco, cosa mi dici? Cosa ti dico? Buonasera a tutti, no? Anzi, buongiorno. È sempre roba usata, perché non te lo fa vedere acceso almeno? Poi il microfono non è originale. Comunque, Lu, dipende da quanto vuoi spendere. Io te l'ho detto. Quindi la tua. Non lo so, io roba usata non avrei comprato a priori, scelta mia, voi fate popis. Prendi un microfono, non vengo io un microfono, ti fa vedere l'udurori che non ne vedo microfono io. Come fa a vedere se io non lo vedo neanche? Ah, eccolo qua, all'angolo è messo, c'è a vedere. Adesso devo ti mandare un po' di foto, 2009, sì. Aspetta, ma dove è foto? Vabbè, il telefono ritirato, Anto. E se ne fa rendere aria. Mi ha tomato la foto, Anto. Diciamo che allora, mi ha chiesto il pagamento per PostePay. Però con PostePay non mi fido. E bonifico bancario dovrei andare su sicuro. Ah, così, eh. Certo, è da paranoia. Tra le due file devo comprare la roba così. Sì, sì, staffa, tutto. Microfono, cavetto, tutto, sì. Ha detto che non è stato mai aperto. No, ci credo, ci mancherebbe. E vabbè, non tu, cosa vuoi ti dica? Cosa vuoi ti dica, se vedere? Come sta? Sta combaciando bene, ah sì, adesso sì. Aspettando il connettore di qualcosa che ti ho mandato. Così me lo saldo. Mi passa un po' di tempo, beh, da lì dove. Che goduria, tu, fare quel tipo di saldatura. Hai visto? L'ho risaldato bello, bello, tutto pulito, hai visto? C'è portatile. Sono presente. Però io mi dovrei ricontare di nuovo. Mi da questo errore. Allora, il saldatore scalda, tu, non arriva alla temperatura sua. Mi dispiace perché è nuova, cazzo. Mi dispiace. Carità. Ho controllato anche io, disse se erano buoni, sono buoni. Attento! Tu non hai idea, Antu, quanto... A parte che il saldatore è sottile, devo devo capire quanta tensione esce, se riesco a dargli tensione al saldatore con la punta sottile, me lo alimento con qualche alimentatore, però non so quanta tensione esce. Se non me le dà giuste, come faccio a misurarle? A San Millo, ma mi ha agganciato un alimentatore, questo qua, questo fa delle saldature fenomenali, e poi è sottile sottile, per fare tipo queste dei connettori, mi un bijou. Non ho visto, non ho mai comprato. Amazon una volta, sempre se mi compro io. Guarda, io ho comprato una tosatrice per cani, l'ho provata, ma dove la provi funziona bene, e il pelo non lo taglia, cioè se taglia, taglia, boh, non sta lì, si inceppava, poi si riscalda in una maniera allucinante. Allora gli ho mandato dei messaggi, mi ha detto di chiudere, di non vuol poco che viene il corriere a prenderselo. Non sapevo dove comprarla, perché su eBay c'è tutti i prezzi. Io voglio una tosatrice, non la voglio a rigato, però una cosa che tagli, cioè 50 euro deve fare 50 euro, no, ce ne sono da 20 euro, chissà che sia da 20 euro con quanti sono, chissà, non, proprio taglia poco, e scalda un bel. Questa quella è da 20 euro, guarda, qua ce n'è una da 22, allora, tosatrice a rasoio elettrico, professionale per pelo, cani, tosa, cani e gatti, 22,90 centesimi, però è di quella batteria, ma per carità, poi c'è quella valigetta lo stesso, no, guarda c'è, no, 53, nuda, no, questa l'ho pagata 47 la mia. Poi ce n'è, questa forse è questa qua, 155, tosatrice professionale, zero pelo, zero per cani, lagotto, con testina Oster. E quali? Ah, ma nuovo, sembra so bene. E quanto lo stai vedendo quella tu? Che vuoi entrare avanti? Lu, scusa che ogni tanto non esce sto microfono, vuole pulito bene, dai. Questo è il Turner Expander 500, mi senti bene di radio? Sì, benissimo. Vabbè, devo pulirlo ancora, lo sto solo testando. Questo è l'Expander 500, sempre col Polmar 7000. I toni sono troppo alti forse, ecco, non so, vabbè, ecco, non so, va bene, comunque funziona, dai, poi lo regoleremo meglio, va bene Lu? Chiappa. Grazie di essere, vuole pulito, poco è duro il PTT, dai, va bene, ok, ci sentiamo dopo, se mi serve qualche altro controllo di radio, li sto provando tutti, a Sebo e Manuel. Ciao Antonio Lise, sto usando un Turner Expander 500, cambio. Santo, ti mando le foto dei microfoni che ho ritirato stamattina, c'è quello originale da base della Gain Quinto. Affanculo. Lo devo tenere premuto bene. C'è il microfono originale da base della Gain Quinto. Mai visto l'avevo, cazzo. Minchia che bello che. Qui c'è un bel ragione Expander 500 e sicuramente non lo metterò qua. Adesso vediamo. Va bene, poi ti mando la foto, Antu. Da ridere c'è, cazzo. C'è quello originale anche del Persipson, quello sai, ti ricordi quello tutto in ferro, cromato, che sì, c'è l'asta che si regola, dai, quello lì. Vabbè, poi ti mando la foto, dai, Lugaria, scusa se ti ho interrotto, riprendi e fai girare, ciao. No, non ti preoccupare, tutto sto guardando qua su eBay. Luca, un attimo che mi chiama. Luca, dimmi se c'è alternata, fai la cortesia, ciao. No, parlando, un attimo. Ma perché mi ha detto c'è alternata? Io sono Giulio, dimmi se c'è alternata o qualcosa del genere. Ma c'è importante. E un po' sì. Ok, vabbè, grazie. Niente, giù, ciao. KK, ce ne sono tante, cazzo, non mi fido più ormai, su eBay, guarda, per carità. Devo trovare un negozio, guardare su internet proprio. No, io voglio una macchina rosatrice per i cani, per Cicci. Amazon, vediamo un po'. Vedete che fanno, cioè, fanno vedere questa macchinetta, ma seguita questa, vedi, questa costa 220 euro, 45 watt. Poi sembra più di sì, Beh, tiene la forbice per le pecore, per tasare le pecore fai prima. Buongiorno a tutti. Ciao Gianni, questa qua si vedevo, questa non c'è scritto niente di fatto, questa, questa fruttura è per parrucchiere, per barbiere, barbiere, no, niente, e beh già. Vabbè, toccate, prenditi quelle, per tosare le pecore, quelle forbici che usavano prima, non quelle che usano adesso, quelle forbicione grosse. Uia. Luca, adesso c'è l'alternata? Adesso no. Ma è pulita? La radio com'è? Aspetta, prova giù. 1, 2, 3, prova, attento Luca. Dimmi se c'è alternata o qualsiasi rumore che ci sia. Ma se non c'è portante non devi parlare, devi solo se c'è portante per vedere se c'è. Allora vabbè, avanti. Vai. No, sei pulito, pulito. Ok. Sto usando l'M300 sul K. La radio com'è? Va bene, dai. Non è come le baby più qua. Quello è un altro discorso, già lo credo. Ma cosa si sente? Anche l'eco si sente. Poco a poco ce l'hai, sì. Ma tu non lo senti, Antonio Riserva, Giulio. No, non lo sento Antonio Riserva, io. E tu, Antonio, lo senti a Giulio. E lui non ti sente. Gaba, gaba. E beh, non più riuscita a dire. Sì, allora mi sono riuscitato. Mi stavo aspettando delle foto di un 2009 usato, è nuovo, aspettano più foto, però questo vuole pagamento post-pay o cosa, bonifico bancario? Privato? Non mi fido così, io pago con PayPal e non sbaglio, guarda, lì non sbagli una virgola, non ti possono fregare. Oh, i soldi una volta dati, ciao. No, con PayPal c'è l'assicurazione, lo so. No, con PayPal no, Marco, con PayPal non c'è da scappare. Ah, così è. Ciao già. Ciao, Marco. Se trattengono i soldi loro, quando arriva la cosa e poi gli dirà. Però mi stanno dicendo anche con i bonifici bancari ti fottono. Ehi, sai cos'è lui? Se trovi un truffaldino devi andare in causa e spendere più di avvocati che di quello che hai speso per il baracchino. E poi è roba lunga. Cioè ti pare che io per 120 euro devo andare a Pindini a 600 in alto, se no penso che sono così macco. Gianni, ne hai visto i microfoni? Mi appendo lo spando a 500 per pulire le lamelle, esce molto bene. No, non li ho visti, perché li ha mandati? Sì, sì, c'è il microfono originale della Gain Quinto da tavolo. Non l'avevo mai visto, non sapevo che esisteva. Io ho avuto la Gain Quinto, ma il microfono da tavolo non l'ho mai visto. Guarda, aspetta che te lo mando singolo, quello della Gain Quinto. Guarda le scritte, proprio originale. Buongiorno a tutti di nuovo. Ciao Claudio. Ciao Marco Giù. Grazie Maria, dai microfono, mi è arrivata. No, sto usando l'M300, sto usando sul K, come va? Benissimo, alla grande. L'hai vista la foto che ti ho mandato, dei microfoni che mi hanno portato? No, adesso guardo, perché il telefono ce l'ho giù. Ecco. Ecco. Ciao Otto, stai uscendo male il break? Esatto. Sta blando un microfono per darlo a Riccardino. Però non, forse se lo dimmi cosa sta succedendo, che un vecchio microfono, un MB più 4. Tutto a scorreggi, chef, vabbè, ciao, buongiorno. No, si può pigliare niente, dai, c'è un cristiano, un cazzo, ci non è possibile, non ho voglia di mettere a ripararlo pure, cazzo. Ora sta uscendo. Sì, sta uscendo ma non è bella. Già lo so, l'avrei presa, lo sai come te, Chimio. Non mi piace Fabri, non è bella. L'MB più 5 va bene, in genere? Sì, più 5 sì, il più 5 sì, forse quella lì per te non va bene per i toni. A quanto ce l'hai? No, ma sta proprio niente, devo passare a prenderlo. Adesso. Ma fischia, cosa succede? No, adesso stai uscendo bene. Manca la massa, mancano delle masse. Però allora, così diciamo che è bella la modulazione, se non fischia. Sì, sì, se non fischia sì. E allora cerco di togliergli questo fischio. più che fischio è che gli manca la massa, vediamo cosa riesca a disaccoppiare e vediamo un attimino. Gli voglio dare questo momentaneamente. Come lo tocco, vabbè, come lo mollo, fa casino. Darle quello, ce lo sai che funzionano bene più 4 e più 5, perlomeno con me sul capo funzionano bene, te l'ho fatto sentire quello che aveva Massimiliano, è una bomba con me, funziona bene. Ma anche Giulio sta usando il più 4 sul K, quindi funzionano bene. Togliere quel rumore, Fabri, e poi le prova, già siamo qua. A me quello interessa, allora io posso, sto aumentando, adesso ho aumentato anche un po' l'amplificato, là c'è che sto facendo digitali, quindi adesso se io lo tengo così, la modulazione è buona, diciamo che problema di massa, solo quello volevo sapere, così ci lavoro, se no nemmeno continuo a lavorarci. Sì, se lo stai toccando la cassa non fischia, è un problema di massa, Fabri, non ti devo insegnare niente, controllalo, per il resto sta amplificando bene. Così è troppo amplificata, però no. Sì, così innesca, fa lo stesso problema del 60. Quindi diciamo intorno ai 4, va bene, è giusto, ovviamente, quello che l'importante è che così sembra è bella amplificata. E si conferma. Vabbè dai, lasciami lavorare, cerco di fargli qualcosa, così poi glielo darò domani o dopo. Quindi voglio mettere a posto anche io il suo VAT, metto ROS, metto per tenere sotto controllo un po' tutto, e gli porto anche un alimentatore nuovo, che quello non va bene. E io Fabri, ti ripeto, va bene, però c'è da vedere queste cosette. Va bene, ci sentiamo dopo. Cappa. Sono troppo ingombranti, e tu c'è il posto, ma qua così larghi non ci stanno. E quello che c'è a fianco all'Expander 500, che cos'è? Quello che c'è a fianco all'Expander 500 è il microfono originale da tavolo della Persipson, c'è scritto. Per Persipson, quello è tutto in acciaio cromato. Su uno di quei forum c'è uno che c'ha la collezione di microfoni, tu devi vedere cosa c'è, tutto c'ha, tranne più due di tutti i tipi, tranne più tre, tutti i tipi del tranne più tre, dice che cazzo gli sono costati un sacco di soldi, dice che ha speso, c'ha la collezione. Adesso vediamo, io inizio a collezionare, poi lo sto pulendo, questo è il PTT, l'ho aperto, espande 500, c'è una bella modulazione. Io inizio a collezionare, poi vedo un po' se fare tutto un blocco e darli. Quello dell'Expander 500 non ne ho visto neanche uno in giro, non delle gain. Adesso sento a Capri cosa mi offre. L'Expander 500 è bello come esce, tutto quanto, ma è troppo ingombrante, Claudio. È un apparecchio che bisogna avere molto spazio. E già ne ho spazio, adesso li metto l'altra base. No, quello delle gain, sto dicendo. Quello delle gain non c'era nessuno, capisci? Come coso, come si dice, Capri 2 c'ha l'high gain che gli ho dato io, quindi adesso le propongo il microfono da tavolo suo originale, capito? Va bene, dai, li sto pulendo già, ci sentiamo dopo. Ehi, io sono qua. Eia. Portali, io intanto non sto facendo niente, quindi non è che ho problemi a pulire anche la roba degli altri. Lasci a tutti, non mi vergogno, non mi piace. Ok, allora pongo i vidi e vediamo se tutto funziona. A regola d'arte, sono qua, perdonatemi un attimo. Eia, cosa stai usando come microfono? Station number bene. A me mi piace, è una modulazione bella corposa. No, non è brutta, dai. C'ha più bassi del solito, ti fa la voce più corposa, vedi? No, io l'ho messo il microfono, quello che ho fatto l'ho messo uno sul Cobra e va benissimo. Prima andava, era tutto un asino, il Cobra non gli speciale. Adesso va bene. E poi l'altro l'ho messo sulla LA 48 Plus. Ne ho fatto due. Adesso sono a posto, va. Sì, tutti e due li ho fatti. Uno me l'aveva dato Marco, che era da aggiustare, da mettere a posto, ecco. C'aveva una cosa dalle batterie che uscivano fuori fighe, eccetera. Le ho cambiato, quello lì fatto tutto bene, con termo restringente, senza pulire, lo scotch rosso come lo mette qualcuno, e le saldature catamontagna. No, in generale no, ho detto. Allora, un microfono che mi avevano fatto, adesso tanto usciva tutto quanto a fluscio, a volte non usciva, ho preso, ho aperto lo spinotto, ho visto queste saldature, è presente cazzo, le Alpi, i Pirenei. Devo uscire le saldature alte, case grosse, toccavo una con l'altra, per quello che faceva casino. Cioè, tutte quante risaldate, le fate bene, tutto quanto, il microfono è perfetto. Ma ti dico che anche io non è che abbia un grande saldatore, l'avevo comprato da Fusaro, di quelli da Drift, però salda bene, ti dico la verità che salda bene, fa le saldature perfette, non sono, non fa saldature fredde, le fa belle lucide, le fa bene, poi la punta ogni volta me la pulisco, prima di usarlo lo pulisco, e tutto il trucco sta lì, pulire bene il saldatore quando salda. Gianni. Oh. Allora, questo è il turn responder 500, troppo alto. Prova a passarla per appena. Allora, così è al massimo, così è a 8, ecco qua, così è i toni. I toni sono a 0, e questo i toni sono a metà, ecco qua. Ce l'ho a 8 e a metà, cambio. È una bella modulazione, forte, chiara, tranquilla. Ehi, ehi, l'ho pulito dentro i connettori con lo spray, tutto. Adesso ne ho un microfono, madonna santa. Adesso, se questo va bene al DAC, questo è del DAC. Adesso mando la foto a Massimiliano, a Massimiliano le piace un bel sto microfono. È nuovo, belle, buone condizioni. Se va bene, oh, Anto, va bene questo turn responder 500 come modulazione? Cazzo, ogni BTT che fai, non ha male, tutta la mano bisogna fare poi che c'ha, cazzo, beh. Ok, i toni però non riesco a regolarmi, allora così sono i toni acuti, 1, 2, 3, 4, 5, così sono troppo acuti, allora andiamo a abbassare, ecco qua, così sono a 2, a 4 i toni, come meglio, già, anche tu Antonio, come meglio così a 4, i toni a 3, oppure così a 5? Anche io, è uguale Claudio. Ma io la sento però qua in cuffie. Allora, i toni sono a 0, ecco qua. Così i toni sono tutti a 0. Va bene? Allora. Dai, sto pulendo sempre. I toni così sono a 0, però mettiamo il microfono come abbiamo. Così i toni sono a 0. Va bene? 0, attenzione, 0. 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco qua, così sono 5 toni. 2. A 3 avete detto, quindi devo metterlo così, in questa posizione qua. Così devo lasciare i toni. Anche per te già. Sì, va bene così. Ok, abbiamo fatto un'altra cosa, poi voglio interpellare Giulio, se c'è. Giulio, ma quello strumento che c'ha la Spander 500, già, cos'è, per il controllo della batteria? Non lo so, però non ho mai avuto lo Spander 500, non l'ho mai, però l'ho visto sempre da lontano, però non lo so, penso che sia della batteria comunque. Ma l'hai vista la foto o te la mando singolo? Cazzo, ne ho ragione. Lo so che è grande, già lo so. Ce l'aveva Don Diego, te lo ricordo. Chi ce l'aveva? Don Diego. Don Diego, non Diego della Vega, cioè 55 centri, con Rudon, cioè Orecchion. Intanto l'ha ereditato tutto. Il Gobetto l'ha ereditato case, tutto di più. Guarda, ti sto mandando la foto così lo vedi meglio, perché siccome quando parlo si muove il lo strumento, vedete la batteria, si va al massimo, ok, adesso ti mando la foto, aspetta. Allora è modulatore, dai. Ah, ecco, no, c'è anche il pulsantino, battery test, sì, non l'avevo visto, per controllare la batteria. Va bene, va bene. Allora, quindi abbiamo detto lasciarlo a 8 così, e i toni sono questi, dai. I toni a 30, così come me l'hai regolato tu, va bene? Bene, bene, bene. Ok, allora lasciamo stare così, dai. Mannaggia, 3-4 la prova. Questo è funzionante con lettore a 4, però con l'adattatore, perché quindi se questo è con l'adattatore praticamente questo va bene per il DAC, allora, perché qua sul Pullman ci vuole l'adattatore, quindi questo è col DAC. Allora lo proviamo subito col DAC, datemi un minuto e lo proviamo. È una bella capsula, sicuramente dovrebbe essere di quelle ceramiche. Io non ho mai avuto quel microfono, l'ho sempre visto da lontano, ma non l'ho mai avuto. È bello però, dai, è ingombrante ma è bello, ma io ne ho spazio, vedi, ha voglia spazio, vi fai. Non lo copio da poco, lo copiava la mattina vuole, quello sta bene nel DAC, perché è mastodontico come il DAC, e va bene per il DAC, se va bene come modulazione è ok. Allora intanto vediamo se sta uscendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questo è il DAC. Sì, sta uscendo. E come sta uscendo? Mi piace più sull'altra radio. Oh, vabbè, quello è valvolare, però qua c'è da regolare. Allora, sul DAC bisogna fare così, intanto, guarda, 1, 2, 3, 4, abbassare il mic gain del DAC e abbassare leggermente questo microfono. Già, così è bella, dai. Sì, così già va bene. Bisogna regolare le cose, c'era il mic gain troppo alto dal DAC. Questa è connessione DAC, perché sugli altri ci vuole l'adattatore, mentre qua l'adattatore non ce ne vuole, quindi va bene. E no, sono sul DAC, perché è mastodontico come il DAC, quel microfono. No, poi lo stesso colore del DAC, uguale, è cromato come il DAC, capito? È nuovo, nuovo, solo che va ogni ABTT, cazzo, tutta la mano bisogna appoggiare. Ehi, ehi, no, no, era solo da pulire. C'è un contatto all'interno che era un po' inchiodato, l'ho spostato lo spray, pulito bene col della trilina, chiuso e va bene. C'ha gli slider per il volume e per il tono, la misurazione della batteria, dai. Va bene. La sede della batteria già te la ricordi com'è? È a incasso di quelle 9 volt, c'ha cioè le lamelline che prendono il più e il meno. Non ne ha di quell'attacco di plastica. Ah no! No già, non è come il Turner, è come l'MB+5, no no no. C'ha una sede, no? Dove ci sono l'appoggio del negativo e poi c'è positivo e negativo, capito? E spinge con due mollettine, proprio c'è la sede piatta a incasso. Bello, le ho tutte pulite, quelle lamelle, la batteria c'ha 9 volt pieno, già va bene, dai. Stanno parlando di italiani. E adesso lo provo, il cazzo ne ho baracchino a provare, questo col DAC e so che l'attacco è DAC, mentre invece la prolunga devo usare sull'Elbex, sul Polmar e sullo Standard. Adesso lo proviamo sul Polmar, perché io mi ricordo che sul Polmar a quarzi era il number one l'Expander 500, te lo ricordi già quanto l'hai pagato se l'hai comprato nuovo? Costava un sacco di soldi. No, ma che mi pago che era? No, non ho mai avuto l'Expander 500, no. Non ho mai avuto, che mi ricordi, non ho mai avuto. Quello grande che hai avuto qual era? Non me lo ricordo, non me ne ricordo, ne ho avuto tanti microfoni, cazzo, di cantare facile ma vedi. Boh, io mi ricordo che ne hai avuto uno grande che si muoveva come questo, no? Si muove dove c'è la sede della capsula. Vabbè dai, comunque adesso stiamo provando questo, poi devo provare anche gli altri. Adesso lo provo sul Polmar, vediamo come si comporta sul Polmar, dai. Ci sentiamo dopo ragazzi. Cosa Anto? Attacca gas, attacca! No Anto, mi hanno dato i funzionanti, lo sai come sono io, non... Guarda, l'unico che mi hanno dato senza connettore è quello della Perception, che però non mi interessa, posso tenere anche a collezione. Mentre mi hanno dato un altro MB più 5 nuovo, un più 5, questo Expander 500, l'iGain e il Perception, capito? Però sono tutti funzionanti, tutti funzionanti. Infatti non so se c'è Massimiliano. Massimo, ci sei in ascolto? No, se sta piovendo vuoi già in ascolto. Aspetta a vedere se c'è, dai. Attento mio hermano della Scusia, isola della Sardegna, la città del Sassari che ti super cordializza, e l'operador Delta Romeo, la città di Sassari, avanti mio hermano. Dipartimento 165 Nord Sardegna chiama, cambio. Sei a propagazione. E senti, Antonio, risenti. Beh, aspetta che sto collegando. Attento mio hermano della Scorsiata Sardini, adelante per un comprendito per favore. Attento arrivo, arrivo, arrivo la Sardegna, si è scusato la diretta, la diretta, ci dà la diretta, ci dà la diretta. Questo è l'onfio. E scusa al 100%, mio hermano, avanti. Anche io devo fare un bidone, ma l'ho compreso. Adesso le do retta e mi diverto. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, dipartimento 165 Nord Sardegna Italia fa chiamata, bricola. Io l'ho chiamata proprio in italiano. Finita la propagazione. Ti ascolto, vai, ti ascolto, forte e chiaro, avanti. Finalito per te Santiago del 3, la radio del 4. Mucha propagación, mucha propagación. Attento Madrid, scusi l'operatore del Tarogà della città di Sassari Nord, Sardegna. Ebbè, Antonio. Oh sì. Attenzione, attenzione mio hermano, della Scusia alla Sardegna, adelante. Cambio. Lucca, Lucca, Lucca. Lucca, io cosa ho deciso con questo apparecchio? Attento mio hermano, se scusi Italia, Nord Sardegna, adelante. Un segnalito per doppio nu della città di Sassari, un segnalito, grazie. Gama gama, controlla bene, collega. ciao, lo super corto, che è questa propagazione, un casino. Ora. Ah, proprio pezzi esterni ti servono, non componenti. E beh, se ci metti una scheda di un altro microfono, va bene. Gala, gala. Non capisco. Purtroppo c'è chi vuole sperimentare. Io lo sai dove lo faccio, se ho due microfoni rotti magari, per farne uno buono, ne smonto uno e faccio l'altro. Però almeno ne ho uno che funziona, capito? Non tocco mai, se c'è un microfono in movie non li tocco mai. Però magari su internet si trovano. Lo metti, M500, ha detto M300. Ti copri il microfono, ecco lo dico per pezzi di ricambio, sai? E così non ti dà lavoro. Se al limite ti servono pezzi, ripeti da lì. Hola, mi senti già? Certo che ti senti. Boh, ma l'ho sentito fischiare io questa cosa, aspetta un attimo. Allora, così, è al massimo, no, a 8. Ecco qua, allora, questo è il Polmar, il 7000, l'X7000. Funziona anche qua, Cosa ne pensi? Meglio l'altro? Via. Va meglio. Ah, beh, qua abbiamo il Michelin. Ah, ecco, vedi che al massimo il Michelin lo dobbiamo chiudere appena appena. Ecco qua, chiuso così da... Ora. Quindi non va bene già. È un po' metallica, però. Non lo so, poi io la sento così. A tu, come la senti tu? Non ti piace su questa radio? Aspetta che abbassiamo, però. Ecco i toni. No, vabbè, è sempre questione di regolazione, ragazzi. Allora, così ho abbassato i toni e mandiamo un po' più su il Mickey Gain. Allora, ecco qua. Allora, così ho abbassato leggermente i toni. Va bene, va meglio? Già, è questione di regolazione, cioè perché una radio magari deve tenere i toni più alti, l'altra li deve tenere più bassi, e fortunatamente questo Spandex 500 c'ha la regolazione, capito? Però non è male, dai. No, non è male, no. Vabbè, ma se tu vieni con un certo tipo di microfonia, mi chiedi come va, io ti dico quello che penso, poi quando la regoli va bene, però se non va bene io ti dico non mi piace. No, io questo devo capire, non abbiate peli nella lingua perché stiamo facendo delle regolazioni, quindi è accettabile così, giusto per capire, quindi me li sto segnando, il Polmar deve avere... a metà la preamplificazione e i toni a 6, mentre l'Elbex i toni a 4 e il DAC i toni a 4, perfetto. Quindi così va bene, dai, orientativamente va bene. Ma vai a provare i microfoni. Adesso sto provando questo, già che c'è la connessione, uno senza connessione, l'altro devo vedere. Ok, quindi questo lo possiamo abbassare ancora così, ecco qua. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, così non va bene, allora dobbiamo metterlo, ecco, dobbiamo metterlo così, dai. Però sta fischiando, vedi? Ecco qua. E anche qua vuole pulito lo slider ancora, dai. Va bene. Anto, tu cosa ne pensi? Non ti piace come l'altro, dai. Ecco. Sì, aspetta, anzi. Ehi, c'è Massimiliano, dai. Avanti Massimiliano. Ehi, ciao, buongiorno a tutti, dai. Adesso si può modulare che Gai ha finito. Ehi, stavamo facendo le comparazioni tra il Polmar, adesso sto usando lo Spandex 500 col Polmar e basta, mentre poco fa lo stavo usando con il DAC, ma col DAC pompa di più. Cosa ti sembra, Massimilia? Ma i toni c'ha questo. Sì, c'ha i toni, adesso ce li ho a 5, così, allora qua. Vabbè, metto a 0, ecco qua. Così i toni sono a 5. Se lo abbasso fischia. E perché? Come mai? Abbassano ancora un pelino fino all'innesco. Non lo so, devo controllare, qua c'è l'adattatore, capito? Ecco. Così al minimo, vediamo, ora, ecco così. Così al minimo dell'innesco, Massimiliano. Ascolta, prova una cosa mia, prova a chiuderli tutti i toni e metti la mano sul connettore. Allora, li chiudiamo tutti. No. Ecco qua, da 1, da 2 in poi inizia, allora. componente dell'MB più 5 massimiliare. Allora, vediamo se possiamo dare un po' più di Mickey Gain. Ecco qua. Appena appena più di Mickey Gain ho dato, meglio va. Va meglio, ma i tuoi vogliono tutti chiusi, però. Non mi piace molto come modulazione. Sono troppi alti. Troppi alti, vero? Non lo so, poi c'è l'adattatore su questo cazzo di Polmar. Se te lo provo sull'Elbex te lo faccio sentire meglio, vai. E poi te lo faccio sentire sul DAC. K, positivo, fai. Non c'è problema. Così non mi piace molto, però, perché i turi vogliono chiusi. Va bene. Chi c'è qua, Claudia? Io non sono entrato così su volata. Chi c'è? C'è Antonio Riserva e Coso, e Gianni Alpiru. Ok, dai, io Antonio Riserva non lo sento. Avanti, Gianni. Manca Gianni, sento. Va bene, va. Proviamo a rilanciare questo Antonio Riserva, se non mi ascolta. Antonio, mi senti? Ciao, Massimiliano. 45 c'è la propaganda e la lucidata. Non so, c'è la stamattina dalle 7:30 la propagazione. Rosacci, ma si entra proprio, devi dare un bel po' di vate, se no non si entra. Io non riesco a sentire il canto di Riserva, boh. No, io già lo sento. Ma antenna mia? Sì, al Manganello. Cosa c'è al Manganello? L'antenna, quella forma di Manganello, come si chiama? Quella che c'è anche a tu. Ma la somma? Io per quello non lo sento io. C'ho propagazione a 9 io qua. Cosa? Entra l'acqua al mio ombrello. Cazzo, da noi uno di me va a ridare un assorno, cazzo, non puoi se non te ne metti gli occhiali. Allora, Massimiliano, allora, questo è il coso, il DAC, ok? Ma i toni tutti chiusi sono così? No, i toni sono a metà, li posso chiudere qua perché non fischia, vedi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dimmi la posizione. Ciao ragazzi, allora i toni lasciali chiusi, l'amplificazione come ce l'hai? Ascolta, ci possiamo ascoltare perché vedo che cazzo parla ognuno per i cazzi suoi, solo perché sono vicini, dai, spostati al canale 20. Cavagava, dai, un attimo questa gresca lì. No, anzi, al canale 21 vai, canale 21. Antonio, ci si. Chi è che stava a parlare per i cavoli suoi? Io non ho parlato, assolutamente. No, ma infatti non era la qua che stavano parlando. No, io sì, ho sentito bibbiare qualcosa. Ho capito che cosa ha detto la vita. Cara gara. Non lo so. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, Italia, dipartimento 1C5 fa chiamata, cambio. Attento collega, si ascolti la Sardegna, Italia. C'è propagazione, ma è una propagazione corta, un super corta. Ti stanno parlando sopra addirittura tu. Perché non ti prendi quella di Giulio che la sta vendendo? Una boomerang addirittura, sarà come quella, lui. Ma la boomerang è buona, quella della Lemma, quella della Lemma è la più buona che c'è. Io ne ho avuto diverse boomerang, hanno sempre problemi stazionari, però forse perché le mettevo troppo vicino al muro. Sì, che la fa? Quella con la radiale 275, quella con la radiale alta. Anche la Sirio è una casa buona, la buona casa, dai. Che video! Anto, cosa può essere? Ho piazzato l'altro giorno una parecchia in macchina, l'ho omologata. E ho messo l'antenna così magnetica. E praticamente quando andava a motore faceva... E stazionare non ne aveva perché lo controllavo con un altro apparecchio, andava bene, con un portatile, andava benissimo. E invece con questo qua faceva questo rumore. Oh! Avanti! Anto. Niente, ho contattato il tipo, noi siamo tipo tranquillo, mi ha mandato i suoi dati, mi ha mandato il nome della banca, e in più mi ha scattato un'altra foto che c'è l'MB più 4, l'MB più 5, sembra nuovo, 50 euro. Aspetta. Allora, ascolta una cosa, tanto qua c'è il nome dell'IBAM, poi il nome della banca, Banca Intesa Intestata, questo Andreozzi Mauro, e poi niente, basta solo quello. Devi andare al tabacchino che c'è via Pietrovica, ti fa tutto. Ma non c'è la via e tutto, ma non ci dove si mette la via? No, se c'è l'IBAN che via metti, le loro persone direttamente nel conto. No, c'è su Facebook anche. Cosa stai prendendo? 3009 già, nuovo, nuovo di pacca. Sarei morto. 125 euro spedito. Già va bene, dai. Già va bene. Luci blu? No, normale. È rossa? È rossa, sì. Tanto è scritto il nome e cognome, Andreozzi Mauro, No, niente, mi da Mauro Andreozzi, Technical Manager RCP SPA, Mauro Andreozzi, Caserta, profili di Facebook. Caserta è vicino a Napoli. Ce ne sono tanti, ma questi, non lo so, non so se fidarmi o meno, grazie. Davvero. Luca, attento che non ti mandi un farattino, mi, perché lì a Napoli è andata una persona a comprare un rundichi. Come stavi il trubacco, da poi vi dà un forattino. Breccasi, rientrato. Luca, buttati e frega, stai buttati. Ecco, lui, ma fa una cosa. Compagni già di un lungo, là, non ci lo già a mimmola, là. Non so, Massimilia, ci stai, acquistala tu, ti do i dati e poi se la biglia la biglia tu la butti dura. Allora senza stare lì a cicischiare, prendita un uovo e buona, è inutile stare lì a... sei troppo indeciso nelle cose, compratevelo nuovo direttamente, no? Io l'ho vista e te l'ho mandata, poi vedi tu, la varia è nuova. Non so, no, infatti, mi ha già mandato l'IBAM, stavo andando a fare il coso banca, però mi ha detto che puoi pigliare pure in culata in chili, invece con PayPal non prendi le inculate. Pagalo con PayPal allora. Ma non è asso, glielo chiedo, aspetta. Ma scendi almeno di qualcosa. Non so, come ti correm, Luca. Oh, Lu. Eia. Ho detto, scende di qualcosa, no? No, di più vuole, 125. Di più vuole? 125 mi ha chiesto. Se 120 nel coso. Cosa vuoi ti dica? 5 euro mette a metà di spedizione. Ma qua vero. Cazzo, uno mette un'inserzione da 120 euro e poi vuole 125, cazzo. Vediamo un po' se si... Allora, contrassegno non ne accetta, dice una rogna per ricevere i soldi. Poi, per quanto riguarda PayPal, vediamo. Cazzo, cioè, io mi hanno avuto 160 euro qualche anno fa dalla PostePay. Comunque, quanto al Corriere, da prendersi il pacco della macchinetta, ci aspettiamo un rimborso. Dalla macchinetta? Dalla dosatrice per i cani. Non tagliamo ancora l'eva, va, a calizzare. Poi scalda in una maniera allucinante. Guarda, guarda. Comunque mi ha mandato un bel di foto, Massimiliano, è nuova la radio, è nuova, sta nel telegiro, l'ho anche acceso al canale 29. Sì, lo smitter rimane su... Ah, la padina quella giallina, ciami. È bella sua, classica. Però è nuovo, adesso ti mando le foto, aspetta. Se le vedi meglio qua, allora questa qua, condividi, bulldozer. Su Messenger. Ascolta Lu, una domanda, ma dell'altra che quella da 80 euro che ti avevo mandato il coso, c'è la foto lo stesso? Quella da 80 euro, aspetta, qual era? La stessa, sempre un 3009 uguale, o un 360, cos'era quella da 80 euro? No, 3006. Non c'è il 3006, è il 360 FM. 360, 3006 comunque sia, così altro. È nuova, questa che ti ho mandato è nuova, Allora, mi ha mandato anche un radioamatore questo qua, mi ha mandato anche il suo nominativo. Sì, la Claudio lo fai controllare. Mandatelo alla volta, cazzo. E chi è che sta parlando? Aspetta un attimo, Massimiliano, cosa tu? Allora, faccio così, se è nuova, no, l'acquisto. Adesso se non sta prima devo fargli il bonifico. Cazzo, lì c'è nuova, blu. Claudio, ci sei? Oh, lui, io, scusami, Antonio, ma io non lo sento. Cazzo, è nuova, Sì, è fiammante. Dice che il loro chiamatore non ne usa di questa radio. Ciao, Siamo vado veloce a fare il bonifico, aspetta, ci metto un attimo, no? Vai, figlia della bacca, ma no. Claudio, allora, segnati questo nominativo e mi controlli un attimo. E chi è? Di dov'è? È di fuori, è IZ0CNZ. IZ0CNZ. Controlla a vedere se è reale. Ma chi è? Come si chiama? Giovanni Antonio, come si chiama? No, Andreuzzi Mauro. E IZO, IZ0, fate IZO, boh. Ehi, vabbè, IZ0 sarà sicuramente, boh. IZO non esiste, IZ0, sì. Aspetta che guardo su QRZ, sei cannoso che c'ho.